mi al cambiato. En la da parola y otro vato. Ecco se belle, soltanto tu mi puoi dare. Il bene e la misericordia mi seguiranno tutti i giorni, perché ho scelto a Gesù come il mio re. Yeah, yeah, yeah. Gesù Cristo, la mia vita hai cambiato, vedo le cose tutte nuove. Un canto nuovo c'è in me, sì, yeah. Gesù Cristo, la mia vita hai cambiato, vedo le cose tutte nuove, yeah. Un canto nuovo c'è in me. Jesucristo.